Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie dell'attenzione e grazie a Cristiano Valli che è tornato alla nostra regia. L'appuntamento rimane confermato per voi tutti per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.